Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi parliamo di un personaggio molto affascinante. È un uomo che ha vissuto in due mondi molto diversi tra loro: le fredde lande della Scozia, le calde lagune dei mari del sud. Aveva un fisico cagionevole, malaticcio come si direbbe, però aveva un impulso al viaggio e un'energia quasi inesauribile per un uomo che peraltro fin dall'infanzia aveva sofferto di tubercolosi e aveva una mente capace di sondare come pochi altri l'animo umano. Aveva la capacità di sfidare le convenzioni del tempo e della classe sociale nella quale era nato. Oggi vi parlo di Robert Louis Stevenson, autore dell'Isola del Tesoro, di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e insomma con lui il romanzo d'avventura, che in quegli anni aveva conosciuto una grande fama grazie a Sir Walter Scott, diventa più profondo e assume un enorme valore letterario. Era brillante Stevenson, al di fuori delle convenzioni, era un eccentrico pieno di delicatezza, di sensibilità. Insomma, Stevenson ha segnato il suo tempo, ha reso felice l'infanzia e la maturità di molti di noi. Abbiamo una tale fretta di fare, di scrivere, di metterci in marcia, di rendere le nostre voci udibili per un solo momento nel silenzio beffardo dell'eternità, che ci dimentichiamo dell'unica cosa importante, di cui tutto il resto è solo una parte, e cioè di vivere. Stevenson nasce a Edimburgo nel novembre del 1850. Il secondo nome è scritto Lewis, L-E-W-I-S, e solo in un secondo tempo verrà trasformato in Louis, cioè Louis, come Luigi, e verrà chiamato sempre così. La sua è una famiglia abbiente. Il padre viene da una stirpe di ingegneri che hanno costruito i fari delle coste scozzesi. La mamma viene da una famiglia della nobiltà della campagna, piena di avvocati, di predicatori. Il nonno materno è a sua volta un predicatore che lo scrittore ricorda così nelle sue memorie. Mi chiedo spesso cosa ho ereditato da questo vecchio pastore. Suppongo che egli amasse predicare i suoi sermoni, e in fondo così faccio io, anche se posso sostenere che a nessuno di noi due è mai piaciuto sentire quello dell'altro. Louis è un bambino di salute cagionevole, quindi viene viziato, viene protetto dai genitori. Fin da piccolo viene affidato a una tata, Alison Cunningham, che rimarrà uno dei suoi grandi punti di riferimento per tutta la sua vita. Alison, soprannominata Cammy, è un membro devoto, intransigente della Libera Chiesa, un ramo molto pio della Chiesa protestante. E riempie la testa del suo protetto con le storie dei martiri della religione. Lo costringe a pregare per le anime dei suoi genitori, colpevoli secondo lei di commettere peccati odiosi come bere vino o giocare a carte di domenica. Insomma, questo senso calvinista del peccato rimarrà una costante per tutta la vita di Stevenson. Lo troveremo in molti dei suoi capolavori, insomma, il coesistere con i sensi di colpa. Questa lettera è solo una delle tante che Stevenson scriveva alla sua Cammy, alla sua tata. Mia cara Cammy, sono stato molto contento della tua lettera per molte ragioni. Non pensare neanche per un momento che io possa mai dimenticare le lunghe notti a mare, quando tossivo e tossivo e mi sentivo così infelice, e tu sei stata così paziente e amorevole con un povero bambino malato. Cara Cammy, vorrei poter diventare un uomo di cui valga la pena parlare, solo per poterti dare la soddisfazione di sapere di non aver sprecato i tuoi sforzi. Nonostante la tubercolosi di cui lui probabilmente soffriva, Stevenson dimostra di essere da subito un bambino brillante. A 6 anni detta alla madre il suo primo lavoro, la storia di Mosè. La sua malattia però gli impedisce di frequentare con costanza la scuola, spesso si assenta, la sua educazione viene completata a casa, è magrissimo, fragile, ma questo non gli impedisce di seguire la famiglia in viaggio, non solo in Scozia, ma anche in Germania e in Francia. È un'abitudine quella dei viaggi che lui non abbandonerà mai. A 17 anni Stevenson si iscrive all'università, il padre Thomas lo indirizza a ingegneria perché spera di passargli gli affari di famiglia, ma si capisce subito che Lewis ha altri pensieri per la mente. Invece di seguire le lezioni di ingegneria si unisce a un gruppo chiamato la Società Speculativa, insomma inizia a stringere amicizie importanti con altri giovani letterati. Durante tutta la mia infanzia e gioventù ero considerato e additato come un indolente. Eppure ero sempre occupato a perseguire il mio personale obiettivo, che era quello di imparare a scrivere. Anzi, avevo già la mia nascosta determinazione a voler essere un autore. Il mio vero amore era l'arte delle parole. Il padre, lo abbiamo detto prima, costruiva fari e quindi lo porta nei posti più remoti della Scozia per ispezionare i fari, il suo lavoro, no? Lewis lo segue, però in realtà è molto più interessato a descrivere il viaggio che non l'opera ingegneristica. Il risultato è che a 21 anni lui informa il padre che non ha intenzione di entrare nell'azienda di famiglia, vuole seguire una carriera letteraria. Il padre è rassegnato ma non vinto, si fa promettere da Lewis almeno che si laureerà in legge per avere un pezzo di carta in mano, come si direbbe oggi. Insomma, Lewis è lontano, diciamo, da queste influenze calviniste della famiglia. Lui sceglie una strada diversa e inizia ad adottare uno stile di vita libero, da bohemien, già un fisico particolare e alto, con le mani sottili, poi si fa crescere i capelli, i baffi spioventi che gli danno quest'aria un po' da pirata, si veste con giacche di velluto morbido, un po' cadenti, e intanto legge Darwin, Hume, Spinoza, e la Bibbia la legge sempre meno, anche perché ne aveva letta parecchia da bambino con la sua tata. A un certo punto lui riesce a esprimere il suo carattere. Sidney Colvin, che rimarrà uno dei suoi più cari amici, lo descriverà così. Se si vuole capire il genere di effetto che faceva, immaginate questa presenza leggera, ma straordinariamente vivida e vitale, che di primo acchito colpiva per la sua bizzarria, la sua rarità, come un essere fantastico, ultraterreno, un elfo, un folletto. Il falco e il gabbiano. Dopo il fatto di aver abbandonato la facoltà di ingegneria, Stevenson sta per infliggere un altro colpo molto duro ai suoi genitori, perché nel 1873 comunica a loro di non credere più nella religione cristiana. E per una famiglia di calvinisti ferventi la notizia è un colpo terribile, ne nasce un litigio epocale col padre. Il fulmine mi ha colpito. Ed ora in poi ci sarà vendetta. Venerdì sera mio padre mi ha fatto una o due domande sul mio credo, alle quali io ho candidamente risposto. Che terribile maledizione sono per i miei genitori. Mio padre mi ha detto: «Tu hai reso la mia vita un fallimento, e mia madre, questa è la più grande afflizione che mi sia mai capitata». Oddio, che bella cosa aver rovinato la felicità delle uniche due persone che hanno a cuore la tua vita a questo mondo. Eh sì, e non è solo la religione il punto di frizione di Stevenson con la famiglia, perché lui comincia a frequentare con regolarità i pub, i bordelli, si innamora di una prostituta, poi di una prostituta di mestiere intendo, poi migliora, come dire, si trasferisce a Londra e lì lui non si interessa solo delle signore, comincia a farsi conoscere nei salotti letterari e nel 1873 pubblica il suo primo saggio chiamato Rose, Strade, E poi arriva il primo vero volume, 1878, è Nylan Voyage, tradotto in italiano come Viaggio nell'entroterra in canoa tra Belgio e Francia, e poi l'anno dopo Viaggio nelle Cevennes in compagnia di un asino. Sono opere in cui, come dire, si definisce il desiderio di Stevenson di vivere una vita avventurosa e di raccontarla, soprattutto con viaggi in paesi a lui sconosciuti. E durante i suoi viaggi in Francia incontra quello che poi diventerà l'amore della sua vita. È una specie di comune per artisti. Lui conosce Fanny Osborne, un'americana più grande di lui di 10 anni, insomma gli piacevano le MILF evidentemente. Lei ha 2 figlie, lui si innamora perdutamente. La figlia dell'americana, di Fanny, Belle, che all'epoca ha 20 anni, descrive così il primo incontro. Improvvisamente apparve uno straniero. Dalla sua giacca di velluto e dalla cravatta svolazzante si capiva chiaramente che era un artista. Era magro e molto scuro, e così bizzarro che sulle prime credemmo fosse un polacco o un gentiluomo di origine zingara. E per questo rimanemmo molto stupiti quando ci si rivolse in un inglese molto educato e formale. Fanny è una donna particolare, creativa, interessata all'occulto, era sposata con un cercatore d'oro con il quale ha condiviso una vita durissima nelle miniere del Nevada, dove peraltro ha imparato a sparare, a cavarsela da sola. È molto attratta da questo giovane scrittore scozzese, però non cede subito al suo fascino e decide di tornare in America, forse presa dai sensi di colpa verso il marito che aveva abbandonato. Lui invece, Louis, è sicuro del suo amore. Descrive la voce della sua donna come acqua che scorre sotto il ghiaccio. Vuole correre da lei. Naturalmente la famiglia di Stevenson non ha nessuna intenzione di pagargli il costoso viaggio per andare da una donna di 10 anni più vecchia sposata. Così lui deve mettere i soldi da parte, ci vogliono 3 anni per raggranellare la cifra che gli consente di partire, e finalmente nel 79 si imbarca per gli Stati Uniti. Dopo la traversata in nave arriva al treno in California. Insomma, in quegli anni arrivare in California non era semplice. E lei, Fanny, insomma, evidentemente colpita da tanto ardimentoso amore, lascia il marito. Intanto lui capitalizza l'esperienza della traversata in treno, perché diventerà un suo nuovo libro intitolato Emigrante per diletto. Ci sono una serie di ritratti divertenti della gente che incontra, e però descrive anche la durezza, diciamo, della vita dei coloni del tempo. Robert Louis Stevenson e Fanny Osborne si sposano nel maggio del 1880. La luna di miele è curiosa, miniera d'argento abbandonata in California, e insomma sono lì tra pepite, serpenti e erbacce, e lui la descrive con molto humor nel libro Gli accampati di Silverado. Questo è un genere di vita che diverte molto Louis, ma che ovviamente non è amato dai suoi genitori, che non vedono di buon occhio questo figlio che si mischia a banditi ubriaconi sui treni americani. E il padre addirittura blocca le pubblicazioni di Stevenson in Europa, taglia ponti e fondi al figlio. Così Fanny decide di riportare il marito in Scozia e di fare riconciliare i due, padre e figlio. Una donna intelligente e affascinante riesce in questa impresa. Il padre, all'inizio così ostile nei suoi confronti, diventerà un ammiratore di questa strana nuora americana. Però il lungo viaggio molto complicato che Stevenson aveva sostenuto per arrivare da Fanny ha un effetto disastroso sulla sua salute. Insomma, i 7 anni seguenti lui li passa a cercare un luogo più adatto, più salubre. Con Fanny e il figlio più piccolo di sua moglie, lui prova varie località della Scozia, poi va in Inghilterra, in Francia. La moglie lo obbliga a riposarsi il più possibile e lui trascorre molte giornate a giocare con questo bambino che si chiama Lloyd, il suo figliastro, diciamo. E nei piovosi pomeriggi scozzesi i due disegnano la mappa di un'isola di fantasia nella quale è nascosto un tesoro e l'ispirazione iniziale per il suo grande romanzo L'isola del tesoro. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di Robert Louis Stevenson, uno dei più grandi scrittori anglosassoni dell'Ottocento. È un uomo che ha saputo coniugare la fantasia con la realtà, descrizioni anche pittoresche coniugati con gli aspetti più umili della vita. E a volte è stato erroneamente considerato solo un autore per ragazzi, ma in realtà è stato uno dei pilastri della letteratura ottocentesca. È stato un intellettuale che ha riflettuto sul ruolo della letteratura, sul ruolo stesso dello stile. Molti hanno fatto però la loro prima conoscenza di Stevenson grazie al suo primo vero romanzo, diciamo così, di azione, L'isola del tesoro. L'idea del libro gli era venuta durante uno dei tanti pomeriggi che aveva passato a giocare con il figliastro Lloyd. Doveva essere una storia per ragazzi. Non c'è bisogno di fare della psicologia o di una scrittura eccezionale. E ho avuto un ragazzo a portata di mano per avere una pietra di paragone. Le donne sono escluse. E poi ho avuto un'idea per Long John Silver, che so già che mi darà grandi soddisfazioni. A suo modello voglio prendere un amico che ammiro molto, ma lo privo di tutte le sue qualità che il suo temperamento rende superiori e lo lascio senza niente, solo la sua forza, il suo coraggio, la sua rapidità e la sua magnifica genialità. L'amico di cui Stevenson parla è William Henley, un editore con gravi problemi di salute che aveva perso una gamba. Più che una storia di pirati, comunque il libro è soprattutto quello che potremmo definire un romanzo di formazione, anche perché era stato scritto proprio per questo bambino, per questo Lloyd, e forse è proprio per questo che il romanzo non è solo un libro di avventura, diventa un capolavoro della letteratura. Ci sono state decine di trasposizioni cinematografiche, una molto famosa del 34 diretta da Victor Fleming. Non stare, non stare. Chi sei tu? Io sono Ben Gunn, il povero Ben Gunn. Sono 3 anni, sai, che non parlo con nessuno. Sei un naufrago. Naufrago? L'ho abbandonato 3 anni fa. Come vorrei mangiare qualcosa da cristiano. Tu non hai per caso un pezzo di formaggio con te, no? No, Beh, se riuscirò a tornare a bordo, te ne darò io un po'. Cosa ti impedisci di tornare a bordo? Non sarà mica il vecchio Flint, eh? Oh no, Flint è morto. Ma a bordo ci sono alcuni dei suoi pirati, un gran guaio per noi. Anche quello con una gamba sola? Tu vuoi dire Silver? Se lui che ti ha mandato a cercarmi, io ho finito di campare questa volta, ne sono sicuro. L'isola del tesoro ha un successo immediato. All'inizio viene pubblicata a puntate su una rivista per ragazzi, poi alla fine del 1883 viene raccolta in un unico volume e Stevenson viene consacrato come uno scrittore vero e proprio, perché fino a quel momento aveva pubblicato prevalentemente saggi e poemi, ma soprattutto Stevenson risolve il suo cronico problema di mancanza di soldi. 3 anni dopo Stevenson pubblica il suo secondo romanzo ed è un romanzo lontanissimo dalle atmosfere dell'isola del tesoro. Si intitola Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, la storia del dottore colto, raffinato, che sperimenta una droga che lo fa tornare a uno stato primordiale, insomma un altro se stesso, mostruoso, violento, che vive seguendo i propri istinti. È un romanzo con fortissime allegorie, con una grande impronta psicologica che si focalizza proprio sulla dualità dell'animo umano, della lotta tra il bene e il male, sulle profondità dell'inconscio. E secondo il racconto della moglie, l'idea si chiarisce nella mente dello scrittore durante un sogno in una notte. Durante le prime ore di una mattina, fui svegliata dalle grida di orrore da Louis. Pensando che avesse un incubo, lo svegliai. Egli mi disse con rabbia: «Perché mi hai svegliato? Stavo sognando una storia di paura!» Lo avevo svegliato durante la scena della prima trasformazione. In piena frenesia, Stevenson, che è a letto in seguito a un'emorragia, scrive una prima stesura del libro in 3 giorni. Ma quando legge il romanzo alla moglie, lei gli dice: che questo manoscritto merita di essere qualcosa di più di una semplice storia. Insomma, gli chiede di approfondirne gli aspetti allegorici e psicologici, e la frase "dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna" qui trova la sua conferma, perché Stevenson, spinto dalla moglie, arriva con la stesura definitiva del suo romanzo solo dopo qualche giorno. Alcuni biografi sostengono che lui fosse sotto l'influsso della cocaina, insomma il fatto che scrivesse senza mai dormire lascia pensare anche a questa teoria, ma non ci interessa. E in ogni caso l'opera viene completata e viene pubblicata nel gennaio dell'86, diventa un successo immediato, il libro è uno dei suoi lavori più conosciuti, viene citato perfino durante i sermoni dei predicatori, che vedono in questo libro più l'aspetto morale piuttosto che i meriti artistici o le sottigliezze psicologiche. Negli anni arrivano nuovi romanzi, sempre diversi. Due sono storici, Il ragazzo rapito e Il master di Ballantrae. Entrambi sono ambientati, diciamo, nella Scozia settecentesca. E dalla Scozia del Settecento si passa all'Inghilterra della Guerra delle Due Rose, quindi metà del Quattrocento, un libro che forse è particolarmente caro a noi italiani, soprattutto per la sua trasposizione televisiva. Sto parlando della Freccia Nera, che nel 68 il grande Anton Giulio Maiano portò in TV con una giovanissima Loretta Goggi e Aldo Reggiani. E tutti quelli della mia generazione sanno perfettamente di cosa sto parlando. La notte si appresta per la cupa foresta, minaccioso si fa. Nel frattempo, nel 1887, muore il padre di Stevenson. E visto che intanto anche le condizioni del figlio, di lui, stanno peggiorando, la coppia, libera da doveri familiari, si trasferisce in un paese con un clima più mite. Ho tante cose che rendono dolce la mia vita, che mi sembra un peccato che non possa avere un'altra cosa in più: la salute. Ma anche se vi fa arrabbiare che io dica una cosa simile, credo che, per me almeno, sia meglio così. L'ho sempre pensato, nei miei giorni peggiori, e non mi vergogno di confessarlo ancora oggi. Forse l'impossibilità di muoversi, i lunghi periodi trascorsi a letto, in qualche modo hanno dato modo a Stevenson di concentrarsi ancora di più sulla sua scrittura. Lui, così prolifico, non ha mai smesso di produrre opere, dai romanzi alle poesie, ai saggi. Comunque siamo nell'1888, gli Stevenson partono assieme alla madre dello scrittore, vanno negli Stati Uniti, vogliono raggiungere il Colorado, però si fermano a New York per tutto l'inverno. Il loro vero obiettivo è quello di arrivare nei mari del sud. E nel giugno si imbarcano su un cargo, per 3 anni girano in lungo e in largo per le isole del Pacifico, si fermano addirittura nelle isole Hawaii, dove Lewis diventa amico della nipote del re, poi arrivano a Tahiti, arrivano in Nuova Zelanda, e tutti i viaggi vengono descritti in un volume intitolato Nei mari del sud, che ahimè uscirà postumo. E nel 1890 Stevenson si stabilisce nelle isole Samoa, siamo nel Pacifico meridionale, a più di 3000 km dalla Nuova Zelanda. Qui acquista una proprietà che trasforma in una casa di stile coloniale nel villaggio di Vailima, si fa chiamare Tusitala, che nella lingua samoana vuol dire raccontatore di storie, stringe rapporti stretti con gli indigeni e spesso si impegna ad andare contro i funzionari occidentali che sono arrivati per governare i samoani e difende gli abitanti del luogo e i loro interessi in un clima sereno. Vive con la moglie, la madre, il giovane Lloyd e Belle, l'altra figlia che li ha raggiunti. Insomma, è una vita particolare, questo gruppo di persone all'altro capo del mondo che hanno finalmente trovato la loro dimensione. Lui è libero di scrivere e scrive racconti ambientati proprio in quella fetta lontana da tutti nel mondo. Il titolo dei racconti è Gli intrattenimenti delle notti sull'isola. E di quel periodo ci sono molte foto. Stevenson è vestito di bianco con i suoi lunghi baffi spioventi, è ritratto in mezzo agli indigeni ai quali legge i suoi racconti, e l'ultima sua foto lo ritrae durante la festa per il suo 44esimo compleanno, novembre del 1894. Lui è seduto sulle stuoie in veranda in mezzo a un gruppo di persone del luogo, con al collo delle corone di fiori, accanto a lui c'è sempre l'adorata Fanny e l'anziana madre. il 3 dicembre, mentre sta aprendo una bottiglia di vino, chiede improvvisamente alla moglie cosa c'è o qualcosa di strano, e poi si accascia per terra stroncato da una emorragia cerebrale. E quella notte i samoani fanno la guardia al suo corpo e il giorno dopo lo seppelliscono su un'altura di fronte al mare. Come epitafio sulla sua tomba sono incise queste parole che anni prima aveva scritto per se stesso: sotto il vasto cielo stellare scavate una fossa e fatemi posare, contento ho vissuto e contento muoio e con piacere mi poso qua giù. E siano queste le parole da incidere per me: qui egli giace dove più largamente visse, il marinaio è a casa sua, a casa presso il mare, e il cacciatore sta bene sulla collina. E così dall'altra parte del mondo si chiude la vita di uno scrittore che ha saputo cambiare registro eppure andare sempre a scandagliare l'animo umano, ma raccontando anche avventure, come dire, molto movimentate. Insomma, una grande vita, Robert Louis Stevenson. Se volete segnalarci altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco@radio24.it, visitate la nostra pagina, i nostri social, Facebook, Twitter, i miei Facebook, Twitter, Instagram, insomma, se volete, lo sapete che potete trovarmi. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.